edizione. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea. Non ti prometto un grande stipendio, ti prometto un posto fisso. È un video spagnolo, quello che sentite, col quale apriamo questa mattina prima edizione. Nella Spagna, con il 30% dei disoccupati, che è la nuova frontiera della crisi europea. È stato pubblicato nei giorni scorsi su YouTube, sui principali social network, su un sito che contiene anche gli indirizzi dove rivolgersi. Ma gli indirizzi, appunto, sono quelli degli istituti per seminaristi di tutta la Spagna. Non ti prometto che ti vayan a pedir aiuto. Sì, perché il messaggio "non ti prometto un grande stipendio, ti prometto un posto fisso" è la campagna promossa dalla Conferenza Episcopale Spagnola per trovare nuovi seminaristi. Un video costato 7.000 euro e che qualche discussione già l'ha suscitata. Noi vi abbiamo fatto sentire anche questa mattina già come primo assaggio a prima edizione. Allora, buona giornata ancora da Anna Migliorati. Sentiamo com'è il traffico e poi andiamo sulle prime pagine dei giornali. Prima edizione. E prima però di leggervi quelli che sono i titoli dei quotidiani che troverete in edicola, facciamo invece un balzo su Facebook. Oggi per noi è il giorno della passione del dolore, ma da domani si riparte. A firmare questo messaggio Roberto Maroni, lo ha scritto questa notte a tardissima notte al termine della giornata in cui Umberto Bossi si è dimesso da segretario federale della Lega. Lasciate perdere i giornalisti prezzolati e le trasmissioni TV che ci sparano addosso, ha scritto Maroni, che ha postato sul suo profilo anche un'immagine che lo ritrae con Umberto Bossi. Oggi per noi leghisti è il giorno della passione e del dolore, ma da domani si riparte. Non molliamo mai, chi ci dà per morti ci allunga la vita, iettatori tutti quanti, la grande Lega è tornata più forte di prima, godiamoci la Santa Pasqua e poi ripartiamo alla grande. E vi ho tralasciato anche qualche parolaccia, mettiamola così, nel messaggio postato questa notte da Roberto Maroni sul suo profilo Facebook. E allora vediamo invece cosa scrive la Padania in questa giornata un po' particolare per la Lega. Bossi, Lega per sempre. Umberto Bossi presidente dopo le dimissioni da segretario, per la transizione designati Roberto Calderoli, Roberto Maroni appunto e Manuela Dall'Ago, Stefano Stefani nuovo tesoriere. E il commento del giornale leghista è questo: ha fatto la cosa giusta, tutti credono che conti una carica, conto quello che ha in testa e nel cuore. Bossi parla senza fronzoli, ha fatto la cosa giusta perforando la testa, il cuore di tutta la Lega, con una mossa che ancora una volta ha sorpreso la politica, ha saputo guardare oltre giocando d'anticipo. Così sulla Padania, dove parla anche direttamente Umberto Bossi, l'abbiamo sentito anche poco fa GR24, perché dichiarazioni le ha rilasciate anche a Radio Padania. Gli altri quotidiani che ne pensano? Corriere della Sera, Bossi si dimette, i segreti di un addio, ho sbagliato a far entrare i miei figli in politica, paghino tutti, il cognome non conta, nelle telefonate i soldi del partito per i familiari, Rosi Mauro, spunta anche Calderoli. Lega, è finita l'era di Bossi, scrive La Repubblica, le carte dell'accusa, nelle cassaforte i soldi per The Family, e intervista proprio a Maroni sulla Repubblica che dice ora faremo pulizia senza risparmiare nessuno al congresso, candidato unico. La Stampa, terremoto Lega, Bossi lascia, il leader si dimette e piange. Il Messaggero, scandalo Lega, Bossi lascia, un triumvirato al suo posto. Le dimissioni di Bossi, non in apertura ma in grande evidenza comunque sul Sole 24 Ore, un passo indietro per difendere la Lega, e il commento di Stefano Folli che recita ora un'epoca è davvero finita, nell'ora dell'abbandono si può e forse si deve riconoscere a Umberto Bossi l'onore delle armi, ciò che lui negherebbe a uno qualsiasi dei suoi avversari. Sta di fatto che in un paese in cui le dimissioni non rappresentano un'abitudine diffusa, il vecchio autocrate ha saputo recuperare il senso della realtà smarrito per troppo tempo. Così Stefano Folli. I commenti sono molti, ve ne accenno allora solo solo qualcuno sulla stampa, scrive Giovanni Cerruti, conoscitore del Carroccio. 11 marzo 2004, l'inizio della fine, e ci ricorda che proprio oggi, proprio ieri in realtà, un paio di invecchiati parlamentari avrebbero festeggiato proprio il 5 aprile di 20 anni fa la prima calata a Roma di 80 leghisti. 20 anni fa esatti, il 5 aprile l'elezione dei primi leghisti in Parlamento, 20 anni dopo l'addio di Bossi e lo scandalo. La Repubblica, scrive Ezio Mauro, la caduta degli idoli, cadono ad uno gli idoli della destra italiana. La Lega, ci ricorda Ezio Mauro, è il più vecchio partito italiano in questo momento, nato dall'agonia pentapartitica della Prima Repubblica, sopravvissuto e cresciuto nella bufera di Tangentopoli, che ha cambiato per sempre la geografia politica, poi alleata con l'altro figlio legittimo della Prima Repubblica, Silvio Berlusconi. L'unione di convenienza tra i due leader via via si rinsalda su una prassi e un istinto ideologico che dia vita all'esperimento italiano di una destra reale o realizzata, qualcosa di inedito nelle culture di governo dell'Occidente, nel suo mix populista di potenza economico-finanziaria e paganesimo localista, fino ad oggi. Così Ezio Mauro. Scrive sul Corriere della Sera invece Pierluigi Battista, il Po mormorava, questo il titolo, l'indomito guerriero si è lasciato irretire dal clan familiare, questa è la spiegazione che si dà Pierluigi Battista, il capo carismatico di un movimento nato nella lotta alla corruzione di Roma Ladrona, si è inabissato nei gorghi di una cricca familista vorace e spregiudicata. E c'è anche un'immagine di Giannelli sul Corriere della Sera, auguri a te e famiglia, dice la corazza della Lega Nord da cui esce rimasto nudo Umberto Bossi. Fine del primo nordismo. Dario Di Vico, cade il primo nordismo, straordinario manuale di propaganda che ha mostrato tutti i suoi limiti. E questa è sicuramente la notizia che occupa la maggior parte delle prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola, la maggior parte delle pagine interne, come sentivate, tra commenti che si accavallano l'uno all'altro e in attesa che, di quello che succederà col nuovo triumvirato. L'avete sentito anche nella notte il messaggio di Facebook di Roberto Maroni. Ma ci sono anche altre notizie. Allora, l'altra notizia di giornata con la quale apre invece il Sole 24 Ore è il lavoro, ancora la riforma del lavoro. Allora, lavoro più tasse sulla casa, Marcegaglia riforma pessima, così il Sole 24 Ore, la copertura con nuovi prelievi su abitazioni locate, auto aziendali e biglietti aerei. Andate e ritorno, un duro commento a questo tema lo dedica il Sole 24 Ore quest'oggi in prima pagina. La regola aurea che il professor Mario Monti non può non conoscere, che un presidente del Consiglio in visita all'estero parla del suo paese, vende il titolo Italia, ma non si occupa delle vicende interne. È successo invece con la missione in Asia, dice il Sole 24 Ore. Il verbale chiuso sulla riforma del mercato del lavoro è stato riaperto. Si è indebolita la flessibilità in uscita e sono rimasti intatti oneri contributivi e rigidità sui contratti in entrata, in una dimensione tale da rischiare di ridurre le occasioni di occupazione per i giovani e i tanti, troppi quarantenni e cinquantenni che si sono ritrovati dalla sera alla mattina senza un reddito. Non ci resta che una speranza, si rifacciano di giorno i conti maldestramente impostati di notte. E conclude il Sole 24 Ore, non abbiamo bisogno di pasticci che ipotecano il futuro, siamo ancora in tempo per correggerli, a imporlo sono le conclusioni di questo specialissimo viaggio di andata e ritorno, il viaggio in Asia appunto di Mario Monti. Così su il Sole 24 Ore. Da segnalarvi però su questo argomento, che trovate comunque su tutte le prime pagine dei quotidiani, Corriere della Sera centropagina, partite IVA, licenziamenti, lite tra Maroni e le imprese, con contratti flessibili, errore grave, la tesi anche di Alberto Lesina e Andrea Ichino, e ancora la Repubblica fondopagina. Lavoro, scontro Maroni Confindustria, il premier non esclude la fiducia, Camusso bene il reintegro ma non c'è niente per i giovani. Dicevamo, su La Stampa invece c'è un'intervista, è un'intervista al ministro Fornero. Marcegaglia sia responsabile, così dice la Fornero, che critica Confindustria dalle pagine della Stampa per le accuse alla riforma. Così dice Elsa Fornero: sconcertata dalle demonizzazioni, abbiamo pensato all'interesse generale, non a favorire una parte o l'altra, facciano tutti così. Non capisco gli imprenditori, dice ancora, è stato cambiato un totem come l'articolo 18, nessuno ci avrebbe scommesso. Così la Fornero su la prima pagina della Stampa. Le altre questioni economiche però che restano in primo piano, taglio centrale in questo caso del Sole 24 Ore, la tensione sull'euro e sugli spread. Dalla il differenziale BTP Bund torna a quota 372 e dalla Banca Centrale Svizzera intervento urgente per sostenere la valuta europea. Così il Sole 24 Ore. Il Messaggero, anche qui a centro pagina, lavoro, lite, Marcegaglia, Monti, arriva la stangata su affitti e biglietti aerei. E ci ricorda il Messaggero un altro dato arrivato a fotografare la situazione italiana: diminuito il potere d'acquisto, giù i profitti delle imprese, le famiglie, i risparmi ai livelli del 95. Così il quadro generale su quelle che sono le due notizie principali, come avete sentito, la Lega che un po' fagocita le prime pagine dei quotidiani e poi ancora la questione della riforma del lavoro. Le 6:25 minuti, 30 secondi in questo istante, allora abbiamo ancora tempo per un paio di segnalazioni, comunque anche su altre notizie che qualche piccolo posticino lo trovano sulle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Restiamo sul Messaggero, che a fondo pagina ci racconta un aspetto un po' curioso della crisi. Diminuisce il traffico e calano le multe. Ci avreste mai pensato? Con la crisi i romani scoprono la virtù. Le multe in meno in un anno sono calate del 20%, così come del 20% sono diminuiti il traffico e gli incidenti stradali. Effetto anche questo della crisi e del prezzo della benzina troppo alta, si chiede il Messaggero, e questa almeno è la tesi che arriva questa mattina. E allora, parlando ancora di traffico, ecco un'altra curiosità invece che ci segnala il Corriere della Sera, ed è un via libera che si appresta a dare il Ministero. La bici che avanza contromano. Che succede? Succede che i comuni potranno autorizzare i ciclisti a viaggiare nei due sensi, anche se una strada è a senso unico. Sì alle biciclette contromano, il via libera arriva dal Ministero, ora l'applicazione tocca ai comuni, leggiamo dal Corriere della Sera. Tradotto, significa tragitti più brevi e quindi spostamenti più veloci, imboccando strade a senso unico pensate esclusivamente per le auto. In questo modo si favorirà l'uso maggiore della bicicletta e meno spese per la benzina. I paletti alla deroga ci sono, le strade autorizzate dovranno essere larghe almeno 4,25 metri, ma tant'è, forse in futuro in bici potremo andare anche contromano. E con quest'ultima curiosità chiudiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ci sarà spazio per molto altro da dire, naturalmente, alle 7:20 con Alessandro Milan, e noi invece andiamo al nostro Zapping TV. Finalissima, attesa in TV ieri sera. Oggi vedremo come saranno andati degli ascolti per questa Isola dei Famosi. Intanto la showgirl Antoinette Lia, rispettando i pronostici, ha vinto la nona edizione del reality show L'Isola dei Famosi su Rai 2. Questo ieri sera in TV. Prima edizione. È il momento delle inchieste di Radio 24. Italia in controluce. È 6 di aprile, l'Italia in diretta, l'Italia che si sveglia, ricordo Italia in controluce, prima edizione, Daniele Biacchesi. Oggi parliamo dell'ex sindaco del comune calabrese di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta, 57 anni, farmacista. Si è dimessa dopo essere stata vittima di molte intimidazioni e minacce. In molti le hanno espresso solidarietà, ma la sua storia resta emblematica. Ecco l'intervista di Anna Marino a Maria Carmela Lanzetta. La solidarietà veramente è utilissima, fa molto bene, perché sentirsi da soli è veramente terribile, sentire l'affetto delle persone aiuta molto. La spinge a rivedere la decisione oppure no? No, per adesso no. Quindi le dimissioni rimangono confermate? Sì, sì, sì. Aver avuto coraggio per due mandati a portare avanti la sua lotta è un segnale della primavera calabrese, delle donne, insomma, così come è stato letto? La mia candidatura è assolutamente casuale, la prima. Eravamo un gruppo di cittadini con della grande passione politica, ma senza esperienze politiche di partito. Io ho lavorato fortemente nelle associazioni culturali, comunque. La consigliatura è stata particolarmente difficile e tormentata per mille motivi, un po' dovuta magari alla mancanza di esperienza, un po' dovuta alla mia assoluta intransigenza. Si sente un eroe ad aver resistito fino adesso? No, per niente, no. E a me sembra di aver fatto sempre troppo poco. Non è soddisfatta. Ecco, la sua decisione deriva anche dalla paura un po' per la sua famiglia? Deriva da due motivazioni. Io non ho paura, però sento la consapevolezza di dover difendere i miei ragazzi. Mi sembra giusto che una madre, la prima cosa che pensi nella vita sono i suoi ragazzi, i suoi figli. E allora è giusto che io mi faccia da parte, perché i miei figli debbono avere una vita normale e basta. Allora, se fare politica o fare misera amministrazione in un piccolo paese della provincia di Reggio Calabria non consente di avere quella sicurezza e quella normalità sia nell'amministrare e sia nel condurre la vita familiare, allora è veramente inaccettabile, quindi tanto vale farsi da parte. L'auspicio rispetto ovviamente adesso delle elezioni che dovranno tenersi e al futuro del suo paese? È in mano di chi verrà. Guardi, io non ci sarò. Siamo persone che vogliamo soltanto la normalità e basta. Per quanto riguarda gli episodi che sono successi, cos'è che l'ha colpita di più? L'assoluta impunità e l'assoluta sicurezza di poter fare quello che gli pare. Secondo lei potrebbero in qualche maniera aiutare il fatto che ci siano interventi di governo, magistratura, forze dell'ordine? Secondo me sono doverosi, necessari, al di là della mia persona e al di là della mia presenza. Allora, questa è una fetta d'Italia, va bene? Io mi sento profondamente italiana, io mi sento italianissima. Sono nata in Calabria, ho studiato a Bologna, vivo in Calabria per scelta, ma potrei vivere da qualsiasi altra parte. E allora bisogna garantire la sicurezza a Como come a Reggio Calabria, perché siamo cittadini uguali, assolutamente uguali. Spera che appunto il suo ruolo che ha rivestito in questi tempi sia anche di esempio nella sua terra? Credo che non ce ne sia bisogno, perché esempi positivi nella nostra terra ce ne sono purtroppo, ahimè, tanti. Era Italia in controluce, l'intervista a Maria Carmela Lanzetta. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24 con Piera Ceci, con Scuola in controluce, che oggi, ricordo, parla dell'Aquila 3 anni dopo. Giannina D'Antonio, Gianni De Angelis, Lisa De Angelis, Alessandro De Felice, Antonio, Fabio. Ed eccola, l'Aquila 3 anni dopo. 309 rintocchi della campana della Chiesa delle Anime, 309 nomi letti in questa notte alle 3.32, 3 anni dopo, quel 6 aprile del 2009. Così questa notte nella piazza Duomo dell'Aquila, e io saluto la nostra guida di quest'oggi, Giustino Parisse, caporedazione dell'Aquila del Centro. Buongiorno. Sì, buongiorno. Tu c'eri 3 anni fa, c'eri questa notte, tu hai anche lasciato tanti affetti quella notte. Questa notte com'è stata? Ma questa notte è stata una lunga notte, 3 di quei rintocchi che abbiamo sentito, come dire, mi hanno colpito nel profondo, nel senso che fra quei rintocchi e fra quei nomi c'erano, ci sono i nomi dei miei due figli e di mio padre, oltre che di altri 38 miei compaesani di questo paese qui vicino all'Aquila, una che è stato quella notte completamente distrutto. 3 anni fa, a quest'ora, avevo ormai, come dire, la consapevolezza che la mia vita era finita da una parte e, se vogliamo, cambiata, è cambiata radicalmente, cioè si è ricominciato da zero. E stanotte è stata una lunga notte, iniziata ieri sera alle 9, con una messa, con la lavanda dei piedi a cui hanno partecipato i parenti delle vittime, con una prima lettura dei nomi durante la messa, poi questa fiaccolata che è partita dalla Fontana Luminosa, ha fatto un largo giro lungo una strada via Strinella, è arrivata a Colle Maggio e poi è risalita su Piazza Duomo, dove appunto c'è stato questo momento di, chiamiamolo, di raccoglimento e di ricordo, alla luce delle fiaccole in una città appena illuminata, una città che è vuota, una città tutta ancora da ricostruire. Ecco, quanto fa male vederla ancora così 3 anni dopo per voi? Ricordare in una città che ha ancora tutti i segni di quel che è successo. Sì, è una città, sia il centro storico dell'Aquila che i centri storici del circondario, quelli più colpiti, sono più o meno come quella mattina di 3 anni fa. Il centro storico dell'Aquila in più ha solo che molti edifici, anzi quasi tutti gli edifici sono puntellati, cioè hanno delle strutture intorno che evitano dei crolli o comunque dei danni ulteriori, anche se poi anche questo andrà verificato nel momento in cui apriranno i cantieri. Fa male perché, non tanto perché ci si aspettava che dopo 3 anni, era impossibile pensare che dopo 3 anni l'Aquila potesse essere già tornata com'era, ma quello che fa male è che, siccome è tutto fermo, è tutto bloccato, non c'è nemmeno, come dire, una prospettiva precisa, cioè se non parti non sai nemmeno quando arrivi o se arrivi. E questo è un danno non solo perché le persone non possono tornare, diciamo, nelle loro case dove abitavano appunto fino al 5 aprile del 2009, ma soprattutto perché molti ragazzi non vedono una prospettiva. Il problema oggi è quello: se non si parte con la ricostruzione vera, se non ci sono le prospettive, se non comincia a muoversi un'economia che può dare appunto una possibilità di occupazione, di aprire attività eccetera, allora molti giovani rischiano di lasciarci, e se ci lasciano i giovani, come dire, anche se la città sarà ricostruita, adesso si parla in termini di 15-20 anni, avremo una città completamente vuota, nel senso che non ci sarà più nessuno, almeno nel centro storico. Tu l'Aquila la racconti dalle pagine del quotidiano, ovviamente, tutti del centro tutti i giorni. Ecco, quanti aquilani hanno deciso di gettare la spugna, secondo guarda, te? Qui, come al solito, le cifre sono, no, chi dice 2000, chi dice... In realtà credo che molti sono andati via sicuramente, ma sono andati via perché ci sono persone che hanno delle attività per cui sono stati costretti magari a non stare più all'Aquila, ma ad andare in un comune vicino o addirittura in un'altra città dell'Abruzzo. Però credo che il fenomeno non sia così grande, insomma, ecco. Sicuramente l'anno scorso, ad esempio, si parlava, a proposito dell'iscrizione a scuola, che è un po', no, il terminale che ci fa capire che mancavano 700-800 alunni, nel senso che poi possiamo ipotizzare che siano quindi 700-800 famiglie che hanno deciso di andare. Diciamo che il fenomeno oggi non è forte, cioè non c'è una fuga intesa che proprio la città si sta spopolando, anzi. Se guardiamo ai livelli di traffico che ci sono nell'immediata periferia, sembra il contrario. Però il problema è quello di evitare, perché è il lungo periodo quello che preoccupa, cioè se piano piano le persone che si laureano, si diplomano eccetera, cominciano a dire: ma io qui che ci sto a fare? è nel lungo periodo che il fenomeno potrebbe diventare preoccupante. Che potrebbe, certo. Tra 15-20 anni noi potremmo trovarci veramente con una, noi avevamo una popolazione, siamo una popolazione, l'Aquila, circa 70.000 abitanti. Chiaro che se arriviamo a 40.000 è una brutta botta, insomma, per capirci. Prima edizione. Quanto era bella Onna quella notte, prima dello scossone orrendo. La luna rischiarava i vicoli, via dei calzolai, via Oppieti, via dei Martiri, via Ludovici, via della Ruetta, via delle Siepi. Dentro mille anni di storia e milioni di storie, uomini e donne che quel piccolo paese in fondo alla valle della Terno avevano costruito e amato. In quella orrenda notte abbiamo perso tutto, le vite umane, le case, il nostro paese. Non sentirò più gli odori, da bambino a ogni passo c'era una stalla. Sotto gli animali, sopra gli uomini. Nei giorni di festa i profumi del pomodoro fresco per fare il sugo rallegrava il palato, ancora prima di consumare il pasto. E poi le voci, la colonna sonora di un paese di gente semplice. Quella notte, dopo lo scossone orrendo, le voci non c'erano più. La luna rischiarava il silenzio, il dolore tanto forte da spezzare le corde vocali. Quella notte era una bella notte. Giustino Parisse, capo redazione dell'Aquila del Centro. Io mi sono permessa di mandare in onda anche quello che tu hai scritto 3 anni fa. Tre anni dopo, secondo te qual è stato l'errore più grave commesso nel dopo terremoto? Ma credo che, diciamo, con il senno del poi potremmo dire che l'errore è stato quello di pensare subito a rifare delle case per l'emergenza, i famosi piani casa, le new town e le casette di legno, i MAP nelle frazioni, e non aver pensato subito di riavviare i lavori all'interno dei centri storici, cioè i centri storici sono rimasti congelati in attesa dei piani di ricostruzione che poi hanno scatenato una polemica politica e istituzionale che ha bloccato praticamente tutto, per cui oggi noi siamo in una situazione che è più o meno questa, cioè nelle periferie i lavori delle case A, quelle poco danneggiate, le case B, quelle che avevano solo problemi non strutturali, sono praticamente terminati, ma non si tratta di ricostruzione, si tratta di manutenzione, diciamo, manutenzione straordinaria. Sulle case E, quelle gravemente danneggiate o addirittura parzialmente crollate o crollate, in periferia adesso qualcosa si sta muovendo, nel senso che entro agosto 9.000 pratiche, quindi, che sono anche più di 9.000 edifici o di 9.000 abitazioni, perché la pratica può riguardare anche un condominio. E quindi tante famiglie, certo. Quindi tantissime famiglie. Quindi questo entro il 31 agosto di quest'anno. Il governo, il ministro Barca ha promesso che saranno tutte approvate e ha promesso anche che anche i piani di ricostruzione sia dell'Aquila che dei paesi intorno all'Aquila saranno approvati, nel senso che il commissario darà l'intesa e poi il 30 giugno il commissario dovrebbe lasciare il passo. Però tu dici diciamo, forse bisognava cominciare prima da qui. Sì, forse se si fosse iniziato prima a pensare anche ai centri storici, qualche idea c'era, poi questo è stato, il comune voleva ad esempio iniziare subito in quegli isolati, in quei palazzi dove si poteva comunque intervenire e dove le norme che regolavano la ricostruzione erano quelle del piano regolatore. E insomma, forse adesso oggi l'Aquila insomma sarebbe già un'altra cosa, ma questo appunto, dicevi tu, il senno del poi. Vedo, però era un segnale, un segnale che in questo momento sarebbe stato importante, oggi quello segnale non c'è. Grazie a Giustino Parisse, caporedazione dell'Aquila del Centro, questo quanto è stata la notte dell'Aquila di questo 6 aprile, grazie per essere stato con noi. Lasciamo l'Aquila, ma torneremo naturalmente a parlarne a Radio 24 nel corso della giornata, perché molto ancora c'è da dire per non dimenticare, appunto. L'altra notizia però di queste ore che incombe è quella della Lega. Bossi, Lega per sempre, titola questa mattina La Padania. Lega, è finita l'era di Bossi, come scrive La Repubblica. E allora, prima di chiudere, vi facciamo anche risentire quello che ha detto Umberto Bossi ieri sera a tarda sera a Radio Padania. Sapevo che la mia nemica era irrevocabile in quel momento. Non era un problema dell'uno o dell'altro, era un problema al centro a Marone o roba del genere. No, no. Non c'è nemmeno che mi abbia chiesto le dimissioni, non gli ho voluto darle. Compravo il campo da ogni equivoco e da ogni ingombro. Per lasciare la possibilità a chi deve lavorare di fare il loro lavoro in maniera migliore. La scelta migliore adesso è più che mai bisogna essere vicini e compatti. Ho detto mi dimetto, ci sono messi tutti a piangere. Diciamo che è stato un momento emozionante per me, che mi sono commosso, evidente. Le lacrime di Bossi, l'addio alla Lega. Tra poco ripartiamo ancora da qui con GR24, che con le notizie ancora di questa giornata. Nel frattempo, grazie Carmelo Lauricella e Viola Bottoni in regia e in redazione. Ancora buon venerdì da Anna Migliorati, ci risentiamo tra poco.